E quante volte queste persone mi erano tornate davanti nel corso della loro vita, le cui varie circostanze sembravano presentare gli stessi esseri, ma sotto forme e per fini differenti. E la diversità dei punti della mia vita, per cui era passato il filo di quella di ciascuno di tali personaggi, aveva finito col mischiare quelli che sembravano più distanti, quasi che la vita possedesse un numero limitato di fili per eseguire i disegni più diversi. Niente era più separato, per esempio, nei miei diversi passati, delle mie visite allo zio Adolphe, del nipote di Madame de Villeparisis, cugina del maresciallo, di Le Gandin e sua sorella, dell'ex parsettaio amico di Françoise in cortile. E oggi tutti questi fili diversi si erano riuniti per comporre la trama. Qui del matrimonio Saint-Luc, là della giovane coppia Cambremer, per non parlare di Morel e di tanti altri la cui congiunzione aveva concorso a formare una circostanza, tanto che la circostanza mi sembrava fosse l'unità complessiva e il personaggio solo una componente. E la mia vita era già abbastanza lunga perché mi fosse possibile completare più d'uno degli esseri che mi offriva con un altro, trovato in regioni opposte dei miei ricordi. Persino agli Elstir, che vedevo qui, a un posto che era un segno della gloria del loro autore, potevo aggiungere i più vecchi ricordi dei Verdurin, i Cottard, la conversazione nel ristorante di Rivebelle, il ricevimento dove avevo conosciuto Albertine e tanti altri. Allo stesso modo, un amatore d'arte a cui si mostri l'anta d'un retablo ricorda in quale chiesa, in quali musei, in quale collezione privata sono disperse le altre, così come seguendo i cataloghi delle aste o frequentando gli antiquari finisce col trovare il gemello dell'oggetto che possiede e con cui fa il paio. Nella propria testa può ricostruire la predella, l'altare tutto intero. Come un secchio che risale lungo un verricello va a toccare la corda a più riprese e su lati opposti, non solo un personaggio, non una sola cosa, quasi, che avesse avuto un posto nella mia vita, non vi aveva sostenuto via via ruoli diversi. Un semplice incontro mondano, persino un oggetto materiale, se lo ritrovavo dopo qualche anno nel ricordo, vedevo che la vita non aveva smesso di tessergli intorno fili diversi che finivano col rivestirlo del bel velluto inimitabile degli anni, simile a quello che nei vecchi parchi avvolge una semplice conduttura dell'acqua in una pelliccia di smeraldo. Non era solo l'aspetto di queste persone a farle sembrare personaggi di sogno. Per loro stessi, la vita, già mezzo addormentata nella giovinezza e nell'amore, era diventata sempre di più un sogno. Avevano dimenticato persino i loro rancori, i loro odi, e per essere sicuri che fosse proprio alla persona che avevano di fronte che non rivolgevano più la parola da 10 anni, avrebbero dovuto consultare un registro, non meno vago d'un sogno in cui si è stati insultati non si sa più da chi. Tutti questi sogni formavano le contrastate apparenze della vita politica, dove in uno stesso ministero si vedevano persone che si erano accusate a vicenda di assassinio o di tradimento. E questo sogno diventava spesso come la morte in certi vecchi nei giorni successivi a quello in cui avevano fatto l'amore. Durante tali giorni non si poteva più chiedere niente al Presidente della Repubblica, dimenticava tutto. Poi, se lo si lasciava riposare per qualche giorno, il ricordo degli affari pubblici gli ritornava, fortuito come quello di un sogno. Non appariva in una sola immagine, a volte, quell'essere così diverso da quello che avevo poi conosciuto. Per anni, Bergotte m'era parso un dolce vegliardo divino. Per anni mi ero sentito paralizzato come da un'apparizione davanti al cappello grigio di Swann, al mantello viola di sua moglie. al mistero di cui il nome della sua razza avvolgeva fin nei salotti la duchessa di Guermantes, origini quasi favolose, affascinante mitologia di rapporti diventati poi così banali, ma che esse prolungavano nel passato come in cielo aperto, con uno splendore simile a quello proiettato dalla coda scintillante d'una cometa. E persino i rapporti, che non erano cominciati nel mistero, come i miei con Madame de Souvray, oggi così aridi e puramente mondani, serbavano agli inizi il loro primo sorriso, più calmo, più dolce, e così soavemente tracciato nella pienezza d'un pomeriggio in riva al mare, della fine d'una giornata di primavera a Parigi, fragorosa di carrozze, di polvere sospesa e di sole agitato come una distesa d'acqua. E forse Madame de Souvray avrebbe perso molto del suo valore se la si fosse staccata da quella cornice, come quei monumenti, per esempio la Salute, che, privi in sé d'una gran bellezza, figuravano meravigliosamente là dove sono situati, ma faceva parte anche lei d'un lotto di ricordi cui attribuivo un certo prezzo uno per l'altro, senza chiedermi quanto esattamente vi contasse Madame de Souvray. Una cosa in tutti quegli esseri mi colpì ancor di più dei cambiamenti fisici e sociali che avevano subiti, e fu quello della diversa idea che avevano gli uni degli altri. Le Grandin, che disprezzava Bloch e non gli rivolgeva mai la parola, fu amabilissimo con lui. Non era assolutamente per la posizione di maggior prestigio acquisita da Bloch, nel qual caso non meriterebbe d'esser notato, giacché i cambiamenti sociali comportano necessariamente cambiamenti rispettivi di posizione fra chi li ha subiti. No. Il fatto è che le persone, ossia ciò che esse sono per noi, non hanno nella nostra memoria l'uniformità d'un quadro. Si evolvono a piacimento del nostro oblio. A volte arriviamo a confonderle con altre. Bloch, quello che veniva da noi a Combray, e dicendo Bloch, era di me che si voleva parlare. Inversamente, Madame Sazerat era convinta che fosse mia una certa tesi storica su Filippo II, che era di Bloch. Senza arrivare a siffatte inversioni, dimentichiamo le carognate che un tale ci ha fatte, i suoi difetti, l'ultima volta che ci si è lasciati senza stringersi la mano, e in compenso ne ricordiamo una più remota, in cui si è stati piacevolmente insieme. Ed è a questa volta più remota che corrispondevano i modi di Le Grandin nella sua amabilità verso Bloch, sia che avesse perso la memoria di un certo passato, sia che lo giudicasse prescritto, miscuglio di perdono, d'oblio, di indifferenza che è a sua volta un effetto del tempo. Del resto, i ricordi che abbiamo gli uni degli altri non sono gli stessi neanche nell'amore. Avevo visto Albertine ricordarsi a meraviglia di una certa cosa che le avevo detta nei nostri primi incontri e che io avevo completamente dimenticata. Di un altro fatto, ficcato per sempre nella mia testa come una pietra, lei non serbava alcun ricordo. La nostra vita parallela assomigliava a quei viali dove dei vasi di fiori sono disposti simmetricamente, a distanza regolare, ma non l'uno di fronte all'altro. A maggior ragione si può capire che di persone che conosciamo poco ricordiamo appena chi siano o ricordiamo qualcosa d'altro, magari di più remoto, da ciò che pensavamo un tempo, qualcosa che ci viene suggerito dalla gente fra cui le ritroviamo, gente che le conosce solo da poco e provviste di qualità e di una posizione che allora non avevano, ma che noi, dimentichi, accettiamo senza esitare. Certo, la vita, mettendo a più riprese queste persone sulla mia strada, me le aveva presentate in circostanze particolari che, circondandole da ogni parte, me ne avevano limitato la vista e impedito di conoscerne l'essenza. Gli stessi Guermantes, che erano stati per me oggetto d'un grande sogno, Quando m'ero avvicinato per la prima volta a uno di loro, m'erano apparsi sotto l'aspetto, una ad una vecchia amica di mia nonna, l'altro ad un signore che m'aveva lanciato uno sguardo così sgradevole a mezzogiorno nei giardini del casinò. Fra noi e gli esseri c'è infatti una bordura di contingenze, così come nelle mie letture di Combrea avevo capito che ce n'è una di percezione che impedisce un assoluto contatto tra la realtà e la mente. Così era solo in un secondo tempo, collegandoli a un nome, che la mia conoscenza di loro era diventata conoscenza dei Germans. Ma era proprio questo, forse, a rendermi più poetica la vita. Pensare che la razza misteriosa dagli occhi penetranti, dal becco d'uccello, la razza rosea, dorata, inavvicinabile, si fosse offerta così spesso, così naturalmente, per effetto di circostanze cieche e diverse alla mia contemplazione, alla mia frequentazione, persino alla mia intimità. Tanto che quando avevo voluto conoscere Mademoiselle d'Estermaria o far fare dei vestiti ad Albertine, mi ero rivolto a dei Germans come ai più servizievoli fra i miei amici. Andare da loro mi annoiava, è vero, come andare dall'altra gente del gran mondo che avevo conosciuta in seguito. Persino il fascino della duchessa di Germans, come quello di certe pagine di Bergotte, mi era visibile solo a distanza e svaniva quando le stavo accanto, perché risiedeva nella mia memoria e nella mia immaginazione. Ma in fin dei conti, e malgrado tutto, i Germans, come anche Gilbert, differivano dall'altra gente di mondo perché avevano radici più profonde in un passato della mia vita in cui sognavo di più e credevo di più agli individui. In ciò che possedevo con noia, conversando nel frattempo con questa e con quella, c'erano almeno le fantasie della mia infanzia che avevo trovate più belle e credute più inaccessibili, e potevo consolarmi confondendo, come un commerciante che si imbroglia nei suoi registri, il valore del loro possesso col prezzo a cui le aveva quotate il mio desiderio. Ma per altri esseri, il passato dei miei rapporti con loro era gonfio di sogni più ardenti, formati senza speranza, dove la mia vita da allora, interamente dedita ad essi, fioriva con tanta ricchezza che potevo a stento capire come il loro esaudimento non fosse altro che quel nastrino esiguo, stretto e scolorito di un'intimità indifferente e disprezzata in cui non riuscivo a trovare più niente di ciò che ne aveva formato il mistero, la febbre e la dolcezza. Non tutti avevano ricevuto, erano stati decorati. Per alcuni l'aggettivo era un altro, sebbene non più importante. Erano, di recente, morti.